I politici che vanno sui tetti dell'università, oggi anche Vendola, ieri Bersani, fanno una cosa secondo me di dovere sociale, insomma, addirittura. Parte, naturalmente per chi non ci sta, non ci sta, ma partecipare alle lotte è un compito fondamentale della direzione politica. Trovo che in questi anni purtroppo se ne è persa l'abitudine, meno male che anche sulla spinta di un grande moto di giovani, la politica riscopre la piazza, la strada, i suoi luoghi deputati. Però mi scusi, in quale la politica diventa una pura amministrazione dell'esistenza, una cosa orrenda.